Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Chi crede che la filantropia sia solo una questione di soldi si sbaglia, o forse no. Insomma, questo lo andiamo a vedere tra pochissimo. Intanto quello che è certo è che avanza una nuova generazione di imprenditori sociali. Sono Luca Tremolada e ci racconterà questa nuova generazione di imprenditori Alessia Maccaferri, che è qui con me, che si occupa per Sole 24 Ore e per Nova dei temi del no profit. Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, ma per prima cosa vediamo di capire subito, anzi di sentire, chi sono i filantropi nella scheda sempre di Alessia Maccaferri. Quando si parla di loro, i filantropi, di solito si parla solo di soldi. Perché i più famosi, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, ne hanno davvero tanti. Basti pensare che il fondatore di Microsoft dona alle cause umanitarie più denaro delle Nazioni Unite. In realtà, tra i filantropi si sta facendo avanti una nuova generazione di imprenditori sociali. Come gli imprenditori, hanno intuizioni, mettono a punto business plan, coordinano diverse figure professionali, fanno alleanze con altri. Il tutto, però, senza fini di lucro, non profit. L'idea di fondo è che la donazione non debba più essere a fondo perduto. Piuttosto, è un investimento in un progetto che col tempo sarà in grado di camminare da solo. Questi imprenditori sociali lavorano spesso in settori marginali, settori lasciati sempre più scoperti dallo Stato, come fasce di assistenza sanitaria, l'housing sociale, la dispersione scolastica, o settori nei quali il mercato non trova conveniente investire, come la ricerca sulle malattie rare o tecnologie sostenibili, che hanno alti costi perché ancora poco diffuse. Settori lasciati scoperti dallo Stato. Tu Alessia mi parlavi di una sorta di zona grigia, poi andiamo a definire bene qual è il colore giusto, qual è la tonalità giusta tra il mercato e lo Stato, vero? Sì Luca, ed è qui che nasce l'innovazione, perché il non profit, il privato sociale, ha il coraggio, ha la forza, ha l'intuizione di andare a capire quali sono i bisogni della società ancora prima che se ne accorga il mercato. Pensiamo ai consumi critici, pensiamo al microcredito, pensiamo alle energie rinnovabili. 824 0024, se non avete mai conosciuto un filantropo, se non credete nella loro esistenza, io li ho qui davanti, chiamate. 349 238 6666 per gli sms. Ma io ho realmente davanti a me in studio Luciano Balbo della fondazione Oltre Venture. Sentiamo chi è nella scheda di Maccaferri. A 53 anni ha cambiato vita. Da protagonista della finanza italiana a filantropo di professione. Luciano Balbo ha creato la fondazione Oltre Venture 7 anni fa e oggi guida la prima società di venture capital sociale in Italia. Nato 60 anni fa a Milano, Balbo si è laureato in fisica, ha fatto carriera nel gruppo Techint e nel 1988 ha fondato B&S, diventando uno dei maggiori esperti italiani di private equity. Oggi la sua esperienza tecnico-finanziaria è al servizio del sociale. Forte di un capitale di quasi 8 milioni di euro, raccolto tra imprenditori, fondazioni e privati, oltre investe in start-up sociali, in collaborazione con attori non profit. Balbo e il suo staff aiutano nella preparazione del business plan, offrono consulenza gestionale e accompagnano le aziende fino a che riescono ad andare avanti con le proprie gambe. Ecco, come profilo lei è un po' il nostro Bill Gates, nel senso che anche lui in un certo modo ha lasciato la carica in azienda per dedicarsi vita natural durante alla filantropia. Ecco, perché? Il paragone con Bill Gates è per mille volte inappropriato, a cominciare forse dalle competenze, certamente dalle risorse finanziarie. Comunque il motivo è un motivo, nasce dal fatto che ho sempre avuto una grande passione per i temi sociali, quindi per la società nel senso più lato, quindi è qualcosa che uno si porta dentro. A un certo punto della vita, potendolo fare, ho deciso non solo appunto nel concetto un po' americano di restituire qualcosa, spesso in termini di soldi, ma di dedicarmi attivamente, quindi imprenditorialmente, a questa mia passione. Quindi è una scelta molto di testa, non di cuore, come spesso si arriva talvolta. Razionale. Esatto, razionale. Portare tempo, un po' di risorse finanziarie, ma soprattutto competenze, esterne, non perché sovrastimi le mie competenze, ma perché purtroppo nel mondo del sociale le competenze sono spesso solo limitate al settore pubblico e al non profit, mentre il settore, essendo il settore sociale molto complesso, per tanti versi molto più complesso delle aziende, perché poi gli attori del settore sociale non è che possono essere organizzati gerarchicamente, si muovono indipendentemente, ecco, una, portare una ampiezza di competenze e di metodo senza che nessuna prevalga, penso che sia un elemento positivo, ecco. E questo non avviene spesso. Ecco Alex, tu che insomma conosci abbastanza bene questo mondo, che cosa si concretizzano poi, cioè, per usare una parolaccia, qual è l'output finale della filantropia? In questo caso sono delle start-up sociali, quindi delle aziende che hanno, come tutte le aziende, un bilancio da rispettare, una struttura, e che però la finalità è non profit. Comincerei con un esempio. La Fondazione Oltre ha fondato a marzo un centro medico privato a Milano. In questo centro medico si offrono dei servizi medici e si punta a tornare in nero, cioè vuol dire, come in un bilancio tradizionale, raggiungere il break-even. Quindi c'è una logica imprenditoriale. Ecco, dottor Balbo, che tipo di servizi offrite e come farete a rientrare nell'investimento e quindi poi a liberare il capitale e a reinvestirlo in altre start-up? Come faremo? Non lo so ancora, nel senso che adesso l'iniziativa è appena partita, anche con successo, ma è ancora abbastanza lontana da un suo equilibrio finanziario. Certamente l'iniziativa e il nostro posizionamento di Oltre, perché poi ci sono vari posizionamenti, è quello proprio di tentare interventi sostenibili rivolte a fasce deboli. Ovviamente non ci occupiamo del disagio estremo che richiede un intervento o pubblico o veramente non profit, cioè una donazione. Noi stiamo offrendo una serie di servizi medici che o una parte il Servizio Sanitario Nazionale quasi non offre più. Uno è chiaro, l'odontoiatria. L'Istat dice che solo il 15% degli italiani utilizza l'odontoiatria pubblica perché l'accesso è limitatissimo. Logopedia, servizi psicologici ed anche aree coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi le visite specialistiche di base, che noi diamo però pur più cari, un po' più cari del ticket ma meno del mercato, in sperimentando un nuovo approccio che non vuole essere alternativo al pubblico ma vuole essere complementare. Ci sono un po' di sms dagli ascoltatori, insomma cercano di capire se la differenza tra beneficenza e filantropia, nel senso che qualcuno ha chiesto: sì, va bene, ma se io mi devo comprare un pulmino o qualche cosa posso venire da voi? Ma la differenza, non parlerei di differenza tra beneficenza e filantropia, parlerei del fatto che bisogni diversi necessitano strumenti diversi. Cioè è chiaro che se abbiamo situazioni dove c'è una persona che non ha nulla, dobbiamo dargli una casa, un luogo dove dormire la notte e non dormire nella metropolitana di Milano. Nel caso se uno ha bisogno di un pulmino per avviare una piccola attività imprenditoriale, non glielo possiamo regalare, anche visto che non lo possiamo regalare a tutti. Allora bisogna costruire uno strumento per finanziarlo anche se non ha un accesso facile al credito. Noi infatti abbiamo avviato una società che fa queste cose. Quindi si tratta di usare strumenti diversi a secondo dei bisogni, che possono essere più o meno forti. Ecco, Vincenzo Manes, a differenza di Balbo, è sia imprenditore che filantropo, insomma ha tutte e due le cariche. Sentiamo chi è sempre nella scheda di Alessia Maccaferri. Vincenzo Manes lavora nel cuore del mondo for profit, guida uno dei maggiori gruppi industriali italiani, Intech, che fattura 3.100 milioni di euro e dà lavoro a 7.000 persone. Eppure nella sua agenda non manca mai Dinamo, la fondazione che lui stesso ha creato 7 anni fa. Non solo, ogni estate Manes trascorre un periodo di volontariato in Toscana, dove ha aperto, assieme a Paul Newman, un campo estivo che in 3 anni ha già ospitato gratuitamente 700 bambini malati. Nato nel 1960, laureato in economia e commercio, Manes ha scelto nel 2003 di mettere la sua esperienza imprenditoriale al servizio del non profit con la Fondazione Dinamo. tutt'altro che una scelta improvvisa. Ha cominciato a conoscere la filantropia durante i viaggi di lavoro negli Stati Uniti. E quando gli si chiede chi te lo fa fare, lui cita il magnate Warren Buffett, che una volta disse: «Fare filantropia è un gioco più duro che fare affari». Da 10 anni è presidente della Fondazione Vita, azionista di maggioranza dell'omonima editrice che pubblica il settimanale non profit. Di fronte alla crisi finanziaria, Manes ha lanciato quest'anno un fondo di solidarietà a favore dei lavoratori di KME, la società del rame, di cui è vicepresidente. Insomma, fare filantropia è un gioco più duro che fare affari, non è esagerato? No, non è affatto esagerato, un po' riprendo quello che diceva prima Luciano. E non è un gioco più duro, è più difficile, molto più difficile. Perché i parametri del business sono abbastanza definiti, quelli della filantropia, soprattutto in questo paese, sono molto meno definiti e quindi è più difficile farlo. Ecco, ma è più difficile perché c'è una logica di far quadrare i conti, cioè più difficile perché si è... Culturalmente perché... più difficile perché far partire dei progetti, renderli sostenibili nel tempo, farli funzionare, gestirli nel lungo periodo è qualcosa che riesce abbastanza complicato proprio culturalmente capire in questo paese. Dimmi Alessia. Dottor Manes, come funziona il Dynamo Camp in Toscana? Ormai è attivo già da qualche anno, come riesce a stare in piedi e a funzionare? Ma Dynamo Camp è un progetto partito 4 anni fa, è un progetto che ha come obiettivo quello di regalare delle vacanze a bambini che sono malati di gravi malattie. Quindi si parla di bambini che sono fondamentalmente malati di cancro e leucemia inizialmente, negli ultimi 3 anni. E questo camp è cominciato appunto 4 anni fa con l'idea di ospitare bambini e di essere, come dicevi, sostenibile. Sostenibile significa per noi il progetto a lungo termine, significa renderlo economicamente sostenibile, managerialmente sostenibile, processo sostenibile, cioè tutto quello che fa poi parte di come se fosse un'azienda che può stare in un mercato, può restarci al di là di chi l'ha fondata, di chi la gestisce inizialmente. E, sostenibile, se vuoi sapere come lo sosteniamo dal punto di vista dei fondi, viene sostenuto in diverse forme. Viene sostenuto da diverse aziende che sono nostri partner, che noi chiamiamo corporate partners, corporate philanthropy partners, viene sostenuto da un gruppo di amici che noi chiamiamo ambassador, viene sostenuto da eventi specifici che raccolgono dei fondi in diversi periodi dell'anno, viene sostenuto da major gifts, che sono le donazioni. C'è una galassia di soggetti che contribuisce. Sì, una galassia che come in tutte le organizzazioni non profit che si rispettino, sono diversificate per tipologia e per ammontare, nel senso che per esempio il major gift sono donazioni che vengono da fondazioni, da grandi fondazioni. Noi siamo stati soggetto passivo, nel senso abbiamo ricevuto fondazioni da grandi fondazioni americane tipo Kresge Foundation e da altre, insomma. C'è Alfredo da Torino che in un SMS si domanda se queste imprese devono essere inutili, che differenza c'è con un'azienda normale? No, non devono essere inutili. Devono essere capaci con la raccolta fondi che fanno di incontrare il bisogno che devono soddisfare, il bisogno per cui sono nate. Quindi non è un problema di utile, assolutamente. C'è un discorso, quindi il no profit. Sono gestite come delle imprese, ma la gestione imprenditoriale poi. Gestione imprenditoriale significa una scelta di management, una scelta di obiettivi, una scelta di risorse, certo. Quelle che sono sufficienti. Una serie di cose, insomma, tipo tipicamente come un'impresa. Dimmi Alessia. Diciamo che non devono andare in rosso, non devono ovviamente sono in rosso lavorare per in definizione. Perdita, devono cercare comunque poi alla fine di autosostenersi e di andare avanti. Certo. Insomma. Dottor Manes, come nasce il rapporto con Paul Newman? Paul Newman ha donato milioni e milioni di dollari alla filantropia, e qual è la principale differenza tra l'approccio americano e l'Italia? Dunque, Paul Newman ha donato esattamente 280 milioni di dollari. L'incontro, c'è stato un incontro, com'è che funziona? L'incontro è stato abbastanza semplice, perché dopo che sono venuto a conoscenza di questo progetto, innamoratomi di questo progetto e quindi volerlo applicare, fare in Italia, Abbiamo come organizzazione, diciamo Fondazione Dinamo, scritto all'associazione Hole in the Wall, che era l'associazione che gestisce questi camp nel mondo, e abbiamo fatto un processo quasi applicativo per poter partecipare a questa associazione, e dopodiché fa le varie fasi del processo. C'è stato anche un incontro a casa sua a New York con Paul Newman, in cui è un incontro a cena in cui ed è alienato tutto. Sì. Ecco, un altro SMS che insomma i nostri ascoltatori non se ne capacitano: come si finanzia la filantropia nella pratica? Cioè, nella pratica che vuol dire? Nella pratica, nel senso che chiaramente la domanda è: ok, ma cosa sono soldi vostri che partono? In parte soldi nostri, in parte soldi di aziende che finanziano, che hanno questo tipo di obiettivi. Ci sono varie aziende che hanno fondazioni che fanno questo tipo di cose, ci sono le fondazioni pubbliche, ci sono gli amici che credono in un progetto che tu stai portando avanti, ci sono le persone che semplicemente si innamorano del progetto e ti finanziano attraverso gli SMS, per esempio. Anche per lei, Luciano Balbo? No, noi abbiamo un posizionamento diverso, credo che ci accomuni il metodo. Esatto. Noi appunto, andando a tentare di soddisfare dei bisogni meno estremi, questa è una situazione, noi ci finanziamo dai ricavi che facciamo, offrendo però un servizio a prezzi molto più accessibili, e parallelamente alcune delle nostre attività hanno anche delle associazioni. Per esempio al Centro Medico Sant'Agostino offriamo alcuni servizi gratuiti a persone che hanno un bisogno estremo e non hanno altre strade su bisogni diciamo della salute complessi, e lì raccogliamo donazioni. Però la maggioranza dei nostri modelli trova sostenibilità. Questa è una differenza di posizionamento, come dicevo, perché usiamo strumenti diversi, perché il bisogno è diverso. I ragazzi che vengono affrontati nel Dinamo di Manes hanno un bisogno diverso, non sono in maggioranza in grado di pagarsi una situazione di questo tipo, che però per loro è molto importante nel loro percorso di malattia grave. Un altro SMS: ci si chiede se non sia una scusa per fare utili e non pagare le tasse. Manes? Assolutamente no, anzi, perché in Italia non esiste questo tipo, ci sono dei numeri di deduzione che sono bassissimi. Quindi non ha assolutamente nessun senso. Ad Alessia Maccaferri, faccio quello scettico. Sì, in effetti la legislazione italiana non incoraggia la filantropia, i grandi numeri della filantropia, non ci sono grandi deduzioni fiscali. Questo è vero negli Stati Uniti, in Italia e in Europa generalmente ecco, no. Ecco, ma negli Stati Uniti invece c'è il sospetto che insomma sia anche operazioni per insomma detrarre delle spese, per non pagare delle tasse. Diciamo che è un forte incentivo. Quindi Bill Gates non è poi così bravo, così buono. E unisce le due cose, unisce la convenienza all'utilità sociale, anche perché poi lui ci investe, come nostri ospiti, ci investe anche tanto del suo tempo, quindi ci crede davvero, insomma. Quindi voi siete entrati comunque in questo settore senza un ecosistema da parte dello Stato? Assolutamente no. Sì, e poi voglio ritornare sul punto degli Stati Uniti. Beh, gli Stati Uniti è sicuramente, c'è un effetto fiscale, una leva fiscale importante, però io credo che gli Stati Uniti siano guidati proprio da una cultura diversa di questo tipo di cose. Cioè, proprio per loro è nella mente proprio loro questo tipo di atteggiamento. Quindi ritorno alla domanda che mi facevi prima: come si finanziano lì? Io sono per dirti il diverso approccio. Ero quest'anno negli Stati Uniti, ero al Seattle Art Museum, dove c'è appunto Bill Gates, il primo benefactor, si chiama Bill e Melinda Gates Foundation, e fra gli altri invece leggo fra i vari donatori, a un certo momento leggi fra i visionaries, cioè quelli che sono, oltre i benefactor, sono i visionary, quelli che hanno una visione di lungo termine, sì, c'era scritto United States Government, cioè United States Government prende dei soldi o qualche altra cosa, diciamo, prende dei soldi e li dona a un museo privato che si chiama Seattle Art Museum. Quindi è proprio una cultura diversa di paese, cioè rispetto a noi. C'è Gianni che si domanda, che chiede al dottor Manes quanto tempo dedica alla filantropia rispetto al lavoro, cioè quanto pesa uno e l'altro. No, tutti i miei weekend da quando apre il camp, che è praticamente da maggio a ottobre inoltrato, una settimana, diciamo, di volontariato, più oltre una settimana di volontariato, e durante l'anno quasi una giornata, diciamo, oltre il sabato. Insomma, è consistente l'impegno. Beh, perché c'è una passione, quindi quando c'è passione non c'è... Lei, dottor Babbo, non gliel'hanno chiesto perché lei fa solo... Certo, la mia è un'attività a tempo pieno, mantengo soltanto la presenza in alcuni consigli di alcune società amiche, ma diciamo certamente il 90% del mio tempo professionale è dedicato alla mia attività inoltre. Ecco, ma è divertente fare questo mestiere o... Per me assolutamente sì, è chiaro che c'è qualcosa di soggettivo. Che vedo anche Manes fa sì con... Certo. Come dicevo, io ho una passione per il sociale, e nel sociale sono due cose divertenti. Uno, gli attori in gioco sono molto differenti da quelli del mondo dove vengo io, del mondo, e nella vita cambiare e vedere altri attori, che non sono solo il bisogno, ma le organizzazioni nel sociale e così via. L'altro aspetto divertente è che tentare di portare dei metodi nuovi, in cui si dà e si impara, perché poi i metodi vengono corretti e non devono essere portati con spocchieria, è ancor più divertente, perché in qualche modo si portano delle cose, cerca di contaminare il resto del mondo e se ne viene contaminati, fortunatamente. Questo è molto divertente. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Sono qui con Vincenzo Manes della Fondazione Dinamo, Luciano Balbo della Fondazione Oltre Venture e Paolo Basilico, presidente del gruppo finanziario Kairos e della Fondazione Oliver Twist. Sentiamo subito chi è Paolo Basilico. 4 anni fa ha cominciato a fare, tra i suoi partner e tra amici imprenditori come Leonardo Del Vecchio, quello che gli riesce meglio nella vita: raccogliere risorse finanziarie e gestirle. Così Paolo Basilico, presidente e amministratore delegato di Kairos, è riuscito a creare Oliver Twist, la fondazione che lavora per contrastare il disagio minorile. Nato a Napoli nel 1959, Basilico si laurea alla Bocconi e lavora poi nelle principali realtà finanziarie italiane: Banca Manusardi, Mediobanca e Giubergia Warburg. Nel giugno del 1999 fonda il gruppo Kairos con l'obiettivo di creare una via alternativa alla grande industria del risparmio gestito. Kairos amministra oggi una massa di oltre 4.000 miliardi di euro. Il gruppo destina il 2% dei suoi utili alle attività di Oliver Twist, coprendo i costi di gestione. In 4 anni la fondazione ha sostenuto 19 progetti per un valore di 5,7 milioni di euro. Insomma, un profilo da Gordon Gekko. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, ricordiamo subito 824 00 24, il numero per parlare con il Gordon Gekko filantropo, e 349 238 6666, l'SMS. Dimmi, Alessia. 19 progetti, si diceva nella scheda. Ecco, sabato prossimo viene inaugurata in Lombardia a Como una scuola. La Fondazione Oliver Twist lavora prevalentemente in Lombardia, in Campania. Questa scuola è la prima in Italia che nasce da una comunità di affido. Dottor Basilico, quali sono gli aspetti più innovativi di questo progetto? Direi senz'altro il fatto che è, come diceva lei, collegata ad una realtà di un gruppo di famiglie che si occupano di affido in Italia. È un settore particolarmente delicato, e quindi questo collegamento famiglia-scuola che noi riteniamo sia molto importante per gli studenti. E poi perché è un liceo del lavoro, essenzialmente, dove è un liceo dove si farà una... Ci sarà una stretta correlazione con il mondo del lavoro, in particolare con il mondo dell'artigianato. Voi sapete che c'è una carenza di... ci sono più proposte e richieste di lavoro di artigianato di quanto non siano le persone che si presentano a farlo. In Italia c'è una carenza quindi di ragazzi che svolgono attività artigianali, e noi vogliamo riempire questo vuoto e lo faremo attraverso una scuola che riteniamo abbia le caratteristiche adatte proprio per sviluppare questo tipo di conoscenze nei ragazzi di oggi. Quanto vale il ritorno d'immagine? Nel senso che chiaramente avere una fondazione come Oliver Twist ha significa, è un bene immateriale, cioè detto in termini tecnici, però significa anche da un certo punto di vista porsi sul mercato in maniera diversa da un altro soggetto economico. Non per noi, se no avremmo chiamato la fondazione Fondazione Kairos. Noi l'abbiamo voluta chiamare Oliver Twist perché è una cosa totalmente scissa dalla società e da quello che facciamo. Lo stesso vale per Leonardo Del Vecchio, che ha fatto una scelta analoga. Abbiamo voluto fare una scelta e abbiamo intrapreso questa avventura nel mondo del no profit dedicandola esclusivamente a questa attività e non vogliamo nessun tipo di legame con le aziende nelle quali lavoriamo e gestiamo. Sì, Alessia. Il punto di contatto forse più interessante in questo caso tra il for profit e il non profit è il fatto, per esempio, che i dipendenti di Kairos vengono invitati a partecipare alle attività di volontariato all'interno di Oliver Twist. Ci sono diversi progetti, in Cordata, il Piccolo Principe, progetti nelle periferie di Napoli, progetti a Milano. Questo forse è un aspetto che mette in correlazione le due realtà, o sbaglio? Sì, io credo che la filantropia possa essere un fattore di coesione all'interno di un gruppo. Molte di queste attività peraltro venivano fatte già dalle persone che lavorano all'interno di Kairos a livello individuale. Noi abbiamo organizzato questo sotto un cappello di una fondazione, però direi che poi, come sempre, chi è sensibile verso questi argomenti lo fa indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un contenuto, un cappello. C'è un ascoltatore, Alberto, che si domanda, che ha un po' di confusione tra filantropia e mecenatismo. Al di là della differenza dei due ambiti, che poi magari ci spieghi meglio tu, Alessia, come fate a scegliere i progetti? Cioè, chi identifica le aree di intervento? Noi abbiamo fatto una scelta che è innanzitutto una scelta geografica. Noi lavoriamo in Italia, riteniamo che in Italia ci siano grandi bisogni e quindi vogliamo essere geograficamente localizzati con i nostri interventi all'interno del nostro paese. Tant'è che dalla partenza abbiamo concentrato le nostre attenzioni essenzialmente sulla Lombardia e sulla Campania. La seconda caratteristica di Oliver Twist è che non siamo una fondazione di erogazione, cioè non facciamo beneficenza e basta. Scegliamo dei partners con i quali lavorare e con questi impostiamo dei lavori che sono spesso dei lavori di anni. La scuola che apre sabato a Como è un progetto che è durato 3 anni, che noi abbiamo svolto in partnership con il gruppo Cometa, che è questa associazione che opera appunto nel settore dell'affido in Lombardia. E quindi è molto importante per noi trovare degli interlocutori che siano disposti anche a condividere il progetto, condividere quello che si fa, come si fa, gli obiettivi e l'esecuzione. Questo non è facile perché nel settore del non profit in Italia spesso c'è gente molto brava o con un grande cuore, ma spesso molto poco disposta a condividere le proposte con i finanziatori. Alessia, è mecenatismo o filantropia quello di cui stiamo parlando? È filantropia. Mecenatismo si riferisce per lo più all'arte, il caso in cui i privati decidono di fare delle operazioni di sponsorizzazione o di sostegno, per esempio ai teatri, alle grandi mostre, quello è mecenatismo. La filantropia invece più generalmente indica il donare finalizzato genericamente al sociale. Ecco, dall'11 settembre in poi un tema che si impone è la trasparenza delle fondazioni. Si era sospettato, insomma, che parte dei finanziamenti per i terroristi potessero arrivare da fondazioni vere e proprie. Soprattutto negli Stati Uniti si impone un tema di trasparenza. Qui in Italia non se ne discute moltissimo, mi sembra, però è sicuramente... credo importante capire come operano le fondazioni e se hanno dei criteri. Secondo me è molto importante. Lei prima ha toccato un punto che riguarda il sospetto che le fondazioni possano nascondere utili ed efficientamenti di questi utili. Io credo che la cultura del sospetto in Italia è sempre molto forte e a volte previene il fare, no? Rispetto a quanto si potrebbe dovrebbe fare. Ci sono certamente stati dei casi negativi nel settore no profit in Italia, ma credo che nella maggioranza dei casi ci siano istituzioni e organizzazioni positive che fanno del bene al paese. Però la trasparenza è un fatto rilevante. Io credo che, per esempio, da quando siamo partiti, uno dei motivi per cui abbiamo raccolto molte donazioni e molti aiuti sia il fatto che noi copriamo interamente i costi della fondazione, e quindi chiunque partecipi a questa iniziativa è sicuro, se dona un euro alla Fondazione Virtuis, che questo euro finirà direttamente ai progetti per i ragazzi. Ecco, questo credo sia per esempio un aspetto molto rilevante, perché molti donatori sono preoccupati di finanziare le organizzazioni e le loro spese piuttosto che non i beneficiari finali. Cristina da Milano, devono partecipare solo persone delle aziende o possono affiancarsi anche privati cittadini? È in linea con noi. Buongiorno Cristina. Buongiorno a voi, non dico più niente, ha espresso la mia domanda esattamente come l'avrei voluta esprimere io. Ok, quindi devono partecipare solo persone delle aziende o possono affiancarsi anche privati cittadini come volontari? La chiedo a lei. Assolutamente aperto a tutti i volontari che vogliano partecipare. Nel gruppo Cometa, per questa scuola che apriremo a Como, ci sono oltre 100 volontari coinvolti, quindi, e non sono certamente tutti dell'azienda Kairos. Quindi il volontariato, che peraltro in Italia è molto più diffuso di quanto non si dica e non si sappia, credo che sia un aspetto fondamentale dell'attività di noi tutti. Ecco, ritorniamo al tema della trasparenza col dottor Manes, una battuta anche da lei rapidamente. Assolutamente d'accordo sulla trasparenza, sul rendere conto di quello che si fa, perché credo che nel futuro solo chi rende conto di quello che fa, chi è totalmente trasparente, vincerà fondamentalmente. Quindi va bene, cioè nel senso, non, del resto però non mi aspettavo una risposta diversa sostanzialmente. Sarebbe stato bello se qualcuno diceva no, vogliamo stare al buio. Sì, no, dica Balbo. Di solito quando si parla di trasparenza si parla di onestà, no? Utilizzo appropriato dei fondi è ovviamente il minimo richiesto, però trasparenza vuole anche dire capire se una cosa funziona o meno. Cioè nel sociale è molto più difficile capirlo che nel business, dove alla fine il profitto. Ecco, però la trasparenza deve andare oltre all'utilizzo appropriato dei soldi. È sperimentazione, valutazione di risultati. Questo è fatto troppo poco, anche questo è trasparenza. Assolutamente. Ecco. Io ringrazio il dottor Basilico, ringrazio il dottor Manes, ringrazio il dottor Balbo, ringrazio anche la dottoressa Maccaferri. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Google lancia una nuova versione del suo browser Chrome. A distanza di un anno dal lancio del programma, il colosso di Mountain View punta a raddoppiare la sua quota di mercato, dove si trova al quarto posto dietro a Firefox, Internet Explorer e Safari. Disponibile tra qualche mese anche una versione per Mac. Bilancio inattivo per Facebook. Dopo 5 anni, 300 milioni di utenti e investimenti per 700 milioni di dollari, il social network ha incassato nell'ultimo trimestre più di quanto speso. Lo ha reso noto il fondatore Mark Zuckerberg con un post sul sito. Governare dalla nuvola. No, non si tratta di una scena mitologica, ma della nuova idea del presidente Obama, che dopo l'utilizzo di YouTube e Twitter ha deciso di adottare il cloud computing per i sistemi governativi. Secondo l'amministrazione Obama, l'impiego di applicazioni e sistemi di data storing online ridurrà l'impatto ambientale e gli sprechi. Nasce l'Administration 2.0? Siete rimasti colpiti da un telefonino visto in una vetrina, ma non ricordate il nome? Chi ha buona memoria visiva potrà fare affidamento su Bing Visual Search, il nuovo sistema annunciato dal Search Engine di Microsoft che utilizza le immagini come chiavi di ricerca. Basterà cliccare sull'immagine scelta per ottenere informazioni su qualsiasi prodotto. Quel tipo non capisce niente, quel tipo è di Coccio. Queste due frasi per un ascoltatore italiano, o meglio romano, significano la stessa cosa. Eppure, secondo uno studio condotto da un gruppo di neuroscienziati dell'Università di Milano Bicocca, esse determinano processi cerebrali molto diversi. La prima, infatti, coinvolge solo l'area del linguaggio collocata nell'emisfero sinistro del cervello. La seconda, una metafora, mobilita anche quello destro. E domani esce in edicola Nova insieme al Sole 24 Ore, quindi siamo in edicola. Sono qui con Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Che abbiamo di bello? I rifiuti. I rifiuti, parliamo di rifiuti, allora, ovviamente, allora. Perché Nova non finisca tra i rifiuti, perché esatto. Ovviamente è talmente carico di cose titolo? Interessanti, a partire dal titolo, la negazione del rifiuto, quindi esatto. Una doppia negazione vuol dire che è un'affermazione, quindi è una cosa positiva, proprio perché il rifiuto diventa un'opportunità, diventa una cosa positiva, e questo in parte siamo già abituati a considerarlo, perché la raccolta differenziata dei nostri rifiuti, carta, vetro, sappiamo che serve a qualcos'altro, servirà a qualcos'altro. Ma qui parliamo di due cose in particolare, di recuperare dei rifiuti che sembravano assolutamente inutilizzabili, rifiuti diciamo pericolosi, non quelli tossici, ma pericolosi, industriali, i residui dei calcinacci, l'amianto addirittura, che viene riutilizzato. Abbiamo scoperto una serie di aziende italiane che recuperano questi materiali, e parliamo di un costo di 200 miliardi l'anno di euro per smaltire questi rifiuti, che diventano opportunità, diventano mattoni, diventano materiali che vengono riutilizzati. Quindi c'è un business. C'è un business. E c'è un'opportunità. E c'è un'opportunità, perché ovviamente sono aziende che rifioriscono. Dall'altra parte, un discorso più generale è quello di che parte da lontano, da Gunther Pauli, di eliminare il rifiuto, cioè di pensare i prodotti già ipotizzando che non abbiano scarti, perché laddove ci siano dei rifiuti vuol dire che il prodotto non è pensato bene. Allora, sostenibilità nell'ambito della progettazione parte da lontano, e quindi nel momento nel quale l'industriale pensa a un prodotto, progetta un prodotto, deve pensare a eliminare qualsiasi tipo di rifiuto, di scarto, in modo che tutto ciò della macchina, tutto ciò che entra dentro, deve anche poi essere già pensato per essere riciclato. Nel paginone ci sarà una caterva, una discarica. C'è una discarica, ma non negativa, ma una discarica di dati, di quantità che possono essere recuperate. Facciamo un esempio: l'amianto, se ne parla spesso, 30 milioni di tonnellate di amianto l'anno che vengono smaltite. Attualmente devono essere smaltite in qualche modo a costi, portate in qualche discarica ad hoc. Così possono diventare un'opportunità. Diamo diventare un altro numero, così almeno diranno quelli di Nova, danno i numeri. 400.000 tonnellate di cenere da termovalorizzatori, gli inceneritori, di cui si è parlato tanto, ovviamente smaltiscono dei rifiuti urbani, producono della cenere, essendo inceneritori producono della cenere, e vengono riutilizzate appunto per la bioedilizia. Poi c'è tutto il tema io mi ricordo che uno dei primissimi pezzi che si scriveva sul riciclaggio era il telefonino riciclabile, che è sempre stata una mezza bufala. Una che non chimera. È... Esatto, una chimera orrenda. Però ecco, ripeto, tutto ciò, cioè l'attenzione che di sostenibilità e di ambiente che dobbiamo avere, ormai porta a pensare dei prodotti non che siano riciclabili, nel senso che tu lo butti, ma che siano fatti di componenti che poi possono essere smontati e riutilizzati. Grazie Pierangelo. Ricordiamo rapidamente il Twitter di Novalab24, che è twitter.com/Novalab24, la mail novalab24@radio24.it. sembra uno scioglilingua e io sono pessimo. Ringrazio quindi Pierangelo Soldavini e Alessia Maccaferri, che è uscita dallo studio ed è rientrata. Grazie, grazie, arrivederci, e diamo linea. Arrivederci, a domani.